Hashtag Autotrasporti. Buongiorno, buongiorno da Andrea Ferro e ben ritrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. In questo programma un po' da sempre poniamo una particolare attenzione alla sicurezza stradale, tema cruciale per chi viaggia trasportando merci e persone. Negli ultimi giorni non sono mancati gli spunti. Innanzitutto la Commissione Trasporti della Camera ha approvato due emendamenti nell'ambito della legge di bilancio 2018. Uno riguarda i cosiddetti seggiolini antiabbandono per i bambini e sulle auto. Il testo prevede che diventino obbligatori seggiolini dotati di un dispositivo di allarme pronto a scattare appunto nel caso che qualcuno si dimenticasse dei piccoli all'interno della vettura. Il secondo emendamento, quello che potrebbe costituire un efficace deterrente sul fronte degli incidenti stradali, riguarda l'uso improprio dei dispositivi elettronici mentre si è alla guida, smartphone e non solo. L'emendamento stabilisce il raddoppio delle sanzioni fino ad un massimo di 1.294 euro, ma soprattutto già la prima infrazione prevede la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Nel caso di una ulteriore violazione commessa entro 2 anni, l'emendamento stabilisce di moltiplicare per 2 le sanzioni attualmente in vigore, con la sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi e una multa fino a 2.588 euro. Insomma, un giro di vite indotto dalla consapevolezza, ben cristallizzata nei numeri e nelle cronache, che la distrazione al volante costituisce ormai la prima causa di incidente. Oggi, per approfondire il tema della sicurezza stradale, cerchiamo di capire in qualche modo di differenziare i margini di rischio sulla base della tipologia delle strade che si percorrono. In questo ci aiuta lo studio presentato da ACI dal titolo Localizzazione degli incidenti stradali 2016. Da questa ricerca si evince che 3 incidenti su 4 avvengono in città, ma è sulle strade extraurbane che si registra l'indice di mortalità più alto, superiore a quello che si rileva in autostrada, dove anche nel 2016 i decessi sono diminuiti. Sentiamo Lucia Pennisi del Centro Studi di ACI. Nel 2016 quelli che sono stati localizzati, che sono stati mappati sulla rete principale extraurbana, sono, tanto per dare un'idea, il 20% degli incidenti totali, cioè questi circa 40.000, 37.000 sono il 20% degli incidenti totali. Però abbiamo 1.264 deceduti che su 3.283, quindi sono più di un terzo. Dallo studio di ACI si scopre che i nastri d'asfalto più a rischio sono la tangenziale est di Milano, la strada statale 26 del lago di Como e dello Spluga e la 4, la Torino-Trieste. Un capitolo dello studio è stato dedicato agli incidenti stradali che coinvolgono i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti, motociclisti. Sentiamo ancora Lucia Pennisi. Anche su questa rete extraurbana l'incidentalità non è solo un fatto legato alla circolazione di autovetture, di veicoli per il trasporto merci e di autobus, ma ci sono stati 98 investimenti di pedoni e questi soprattutto avvengono nell'attraversamento delle strade statali quando attraversano i piccoli centri urbani, ma non solo. E abbiamo un incremento su questa rete di mortalità in bicicletta che registriamo ormai da 2 anni, quindi anche un'attenzione particolare ai ciclisti che sono parte delle due ruote. E poi abbiamo focalizzato anche alcune tratte in cui l'incidentalità è un'incidentalità soprattutto dei veicoli a 2 ruote, dei motocicli. Le tratte più pericolose per le 2 ruote sono, nell'ordine, la Padana Superiore, la Via Emilia e la Statale 233 e Varesina. E sulle 2 ruote, in questo caso in sella ad una bicicletta, è ripreso il testimonio della campagna dal titolo «C'è sempre un buon motivo per essere responsabili», che sta per essere avviata da Ministero dei Trasporti, ANAS e Polizia Stradale. Il testimonial è il cantante Francesco Gabbani. La campagna è stata presentata con gli ultimi dati parziali sugli incidenti stradali, dati che purtroppo indicano un aumento delle vittime. Dopo questa pagina dedicata alla sicurezza stradale, ora aggiorniamo sul dibattito in corso in varie sedi a livello comunitario sul futuro dell'autotrasporto tra regole che mancano e norme che di fatto ora come ora favoriscono i vettori dei paesi dell'est rispetto a quelli della cosiddetta vecchia Europa. La strada verso un'ipotesi d'intesa pare sempre più accidentata. La conferma è arrivata dalla riunione dei ministri dei trasporti che si è tenuta nei giorni scorsi a Bruxelles. Le due linee di fondo paiono al momento inconciliabili, c'è chi chiede di proseguire sulle liberalizzazioni, chi invece pone l'accento sulla necessità di garantire pari opportunità sul mercato. Tra questi c'è l'Italia, il ministro Graziano Del Rio ha ribadito il suo no alle liberalizzazioni, fino a quando ha detto non ci sarà il rispetto delle regole su riposo e cabotaggio da parte di tutti. Queste infatti, se non vengono osservate, ha ricordato ancora il ministro, creano condizioni di dumping sociale e concorrenza sleale. In tema di infrastrutture, la Commissione europea ha selezionato 3 progetti italiani nell'ambito del bando delle grandi reti di trasporto che riceveranno nel complesso quasi 58 milioni di euro di fondi CEF. Si tratta del rafforzamento del trasporto merci su rotaia con l'introduzione sulla rete ferroviaria del sistema europeo di gestione del traffico. Il secondo progetto prevede la realizzazione di lavori infrastrutturali per l'hub del porto di Ravenna. Il terzo invece riguarda l'iniziativa legata allo sviluppo del gas naturale liquefatto nei trasporti marittimi nell'Europa meridionale. La campagna Giovani Conducenti, avviata dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, non lascia, anzi raddoppia, o meglio potremmo dire triplica, è infatti ufficiale. Rispetto a quello inizialmente previsto, altri 3 milioni di euro finanzieranno il progetto formativo voluto per avvicinare i ragazzi ad un mestiere sempre più tecnologico e sempre più lontano dai cliché tradizionali, oltretutto con ottime prospettive occupazionali, visto che in questo settore l'offerta di lavoro è in crescita. I fondi consentono di abbattere i costi per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni. Il progetto poi prevede che i ragazzi vengano coinvolti in stage direttamente nelle aziende. Il primo bando era stato chiuso a maggio con 2.500 domande presentate online. All'iniziativa concorrono le associazioni di categoria, dei costruttori, delle scuole guida e anche il Centro Nazionale Opere Salesiane. Matteo D'Andrea è il segretario nazionale del settore automotive. Noi innanzitutto, quando presentiamo, proponiamo i corsi, facciamo un'analisi del fabbisogno, prima di tutto. Abbiamo rapporti con l'azienda alle quali noi chiediamo cosa vi serve e quindi tariamo i nostri programmi in funzione delle esigenze del mercato. Quindi sappiamo che quando escono dalle nostre scuole hanno il know-how per poter entrare a lavorare in queste aziende. E questo è, diciamo, suffragato dal fatto che noi facciamo delle statistiche annuali e abbiamo un'alta percentuale di ragazzi assunti, parliamo del 70%, 78%, gli altri continuano a studiare, quindi anche questo per noi è un successo, che per loro vuol dire che li abbiamo ristimolati a studiare. Il nostro giro d'Italia per conoscere i problemi locali che investono il mondo dell'autotrasporto oggi fa tappa a Genova. Una delle questioni che nel capoluogo ligure si trascinano da più tempo riguarda la mancanza di un vero e proprio autoporto in grado di accogliere i mezzi pesanti in transito verso le banchine. Pensiamo a quello che succede quando, per esempio, in seguito alle condizioni meteo in porto l'attività si ferma. Un nuovo appello giunge da CNA Fita. Paola Noli è la presidente territoriale. Abbiamo autisti accostati al marciapiede che dormono sul mezzo, non hanno servizi. Noi come CNA Fita su questa partita continuiamo a fare la nostra battaglia. Non ci è stato detto di no, ma allo stato attuale abbiamo un parcheggio che è già qualcosa, ma un autoparco come lo intendiamo noi è veramente ancora molto distante se non cambia fortemente la programmazione in questi ultimi periodi. Cosa significa per un'impresa di autotrasporto essere condizionati da questo deficit? E se le aziende di autotrasporto, e quelle italiane lo fanno tutte, lavorano nel rispetto delle leggi e dei canoni, hanno sostanzialmente una serie di problematiche logistiche da risolvere, anche proprio per la vita dell'autista stesso. Quindi, se noi riuscissimo a sviluppare questo progetto, potremmo anche migliorare la loro qualità di vita, la loro qualità di lavoro e migliorare soprattutto le qualità di lavoro delle imprese dell'indotto, che quindi si occupano di manutenzioni ai mezzi, di servizi che in questo momento stanno operando veramente in condizioni drammatiche. In chiusura alcune notizie in breve. In Italia l'età media dei veicoli commerciali medi e pesanti è di 13 anni e 2 mesi, cioè un anno e mezzo in più rispetto alla media europea. In questa graduatoria i paesi più virtuosi sono Francia e Olanda, e in fondo alla graduatoria Grecia e Polonia, ce lo dice uno studio del Centro Ricerche Continental. Attività portuali ferme e quindi pesanti disagi venerdì prossimo in tutti gli scali per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali. La protesta è stata indetta, si legge in una nota, in seguito al cortocircuito legislativo che intacca i provvedimenti per rilanciare il lavoro portuale contenuti nel cosiddetto correttivo porti. Il governo, chiedono le tre organizzazioni sindacali, deve riprendere il lavoro sul testo correttivo svolto dalle commissioni di Camera e Senato. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, vi ricordo l'appuntamento del sabato con Container, 13:15, Massimo De Donato in studio per un approfondimento su questi temi. Da Andrea Ferro grazie per l'attenzione, ci risentiamo lunedì alle 13:45, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.